24 novembre de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 24 novembre. Dopo la tempesta viene la calma. Tre giorni fa il cielo era cupo, ora invece è sereno. La pace è conclusa, l'assedio è levato. Stamani dal buco della serratura mi è stato promesso di non darmi più bastonate e io ho promesso solennemente di ritornare a scuola, di studiare e di essere buono. Così l'onore è stato salvo. E anche la mobilia e lo specchio grande, perché ho levato la barricata e sono uscito di camera. Viva la libertà! Fine del 24 novembre.